mannaia. Ecco, gran viva, come non attiva per chi è il povero mio segno. Guardo, ripeto, io non lo credo. Si trionfari tu plasmi all'ombra d'una foresta. Mondo, perché l'inutil vesta? Pastore, Compiti il destino. Qual ogni la regola in guardia e attacca subito. Moriamus igitur, juvene sum sunus. Cambiamus igitur, juvene sum sunus. Vieni qui, le bianche braccia intorno al collo mio, la tua testa vicina così alla mia. Il tuo presso al mio cuore. Così. Oh. alla selva, la tremendo fragore sereno. La tempesta dell'oceano, son queste trombe e lampi acciai che l'alme sgomentano i cori. Così mutato vero ti sembro un'ombra un morto uomo un risorto ferito prigioniero Moritato oltre, ma in battaglia mi finsi morto, ma fui gittato morto tra i morti una stanza, funeraria. Quel tivi di morir, giunge la notte, troverai l'ore spettro fuori balzai dalla finestra e mi avvecanti. Udì dall'armi il feragliare, il fuoco, senti l'acuta morsa d'una ferita, ma il mio voler che m'ha fatto gigante pote più del dolor. Allor Oh! terribil mio destino, ma giusto è Dio. Orso in cammino, partire tu, partire spanto e affranto. Destino giusto e santo, e non ripigli l'ena, ricche invita me. Thank you. dell'uragano non le mie preghiere la lunga via da quel voler l'ha smosso Enrique Enrique alla mia madre la finestra aperta ancora che mi scrive Dio fuggita con piangerla perché per te per mamma per tutti sono morta Compiangimi e perdona perché t'amo. accorto.